America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. He's not afraid of the investigation. There is no investigation. I want to be clear here. There is not an investigation of the President of the United States. Jay Sekulow, il legale, uno dei legali di Donald Trump, ieri apparso, ha fatto il giro di tutte le televisioni americane, Face the Nation di CBS, Meet the Press di NBC, poi Fox News, CNN, per ripetere soltanto una cosa. In questo caso ho fatto sentire quello che ha detto Face the Nation, ripeteva: il presidente non è stato indagato e non è indagato, punto e basta, e l'ho ripetuto ossessivamente, cosa che ha colto un po' tutti di sorpresa, perché insomma, ma come mai l'avvocato dice che il presidente non è indagato, quando lo stesso presidente in un tweet aveva detto qualche giorno fa che era indagato? La cosa è bizzarra. Come mai Donald Trump continua a spararsi nel piede facendo dei tweet che poi lo danneggiano, nel momento in cui addirittura certe cose che lui twitta non sono vere? Ecco, allora qui si impone, non l'ho fatto ancora perché sono indiscrezioni che ho raccolto nei giorni scorsi e nelle settimane scorse in ambienti vicino alla Casa Bianca, si impone un pochino un'analisi di quello che è il momento alla Casa Bianca, perché Donald Trump si muove per conto suo, i suoi avvocati si muovono per conto loro, la Casa Bianca sembra vivere di vita autonoma attraverso i suoi funzionari, e dunque tutto questo si traduce in che cosa? Beh, si traduce in un caos. E questa la versione che ho avuto da persone che mi hanno raccontato da Washington, persone che frequentano la Casa Bianca e che sono molto vicine sia agli uomini del presidente che al presidente stesso, quanto difficile sia la situazione. Abbiamo avuto una serie di storie, non so, Trump che perde le staffe davanti alla televisione e si mette a urlare. Trump, questa è una delle fonti che mi ha raccontato, che Donald Trump si mette a letto a un certo punto verso le 6:30, 7 e si fa portare la cena a letto, a casa. E che cena si fa portare? Si fa portare degli hamburger. Non degli hamburger qualunque, degli hamburger McDonald's. Perché? Perché ha l'ossessione che potrebbe essere avvelenato. E dunque preferisce servirsi da un McDonald's per poter essere sicuro che questo cibo che lui riceve è un cibo, tra virgolette, sicuro. Insomma, c'è una situazione di grave tensione alla Casa Bianca. C'è uno scollamento. Per esempio, se n'è andato il numero 2 del capo di gabinetto, Rince Priebus. Se Priebus, che è pure un uomo abbastanza anonimo, cerca di dare un ordine, quest'ordine viene immediatamente smentito da Jared Kushner, che è il genero del presidente, anche lui super nervoso perché anche lui è sotto inchiesta. Insomma, c'è uno scollamento alla Casa Bianca, e una delle cose più interessanti che emerge è che è Trump che finisce per essere il leaker di se stesso. Sapete come il presidente Trump ha accusato di tradimento, di violazione della legge, coloro che diffondono delle notizie riservate che hanno avuto in virtù del loro lavoro, per esempio alla Casa Bianca, all'interno dell'amministrazione? Ebbene, che è successo? Qualche giorno fa, lo ricorderete perché ve l'ho detto qui nel programma di America 24, Christopher Ruddy, che è l'amministratore di Newsmax Media, che è uno dei migliori amici di Donald Trump, è uscito dopo un incontro alla Casa Bianca e, parlando alla televisione, ha detto che Trump voleva licenziare Mueller. Io non ho dubbi che Trump gliel'abbia detto, in un momento di rabbia, in un momento di sconforto, e questa cosa naturalmente è stata poi smentita ufficialmente dalla Casa Bianca. Comunque sia, tutto questo ci dà l'idea della situazione di fragilità che c'è attorno alla Casa Bianca, attorno agli Stati Uniti, una fragilità più in generale, devo dire, del mondo anglosassone. Ieri avete visto quello che è successo, ieri notte, quello che è successo a Londra con questo van, con questo camioncino che si è buttato contro una folla che osservava il Ramadan, una folla che era in uscita da una moschea. Insomma, in questo contesto, devo dire, l'unico punto di riferimento forte che emerge è quello della Francia. Macron ha vinto questa maggioranza assoluta in Parlamento e dunque, chissà che non venga proprio dalla Francia l'elemento di stabilità di cui abbiamo bisogno in Europa, ovviamente, ma anche negli Stati Uniti. Insomma, l'alleanza poggia su più gambe, la gamba francese non è mai stata una gamba secondaria. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, questa è una canzone che parla proprio della fragilità, della solitudine, una fragilità, una solitudine non diversa da quella che sembra circondare in questo momento, nelle ultime settimane, il presidente Donald Trump. E dunque di Mickey Gilley, Lonely Nights. Pardon me, I don't mean to waste your time, I just need someone to talk to, if you don't mind. Well, I fought the loneliness, but tonight I guess I'm just too weak to fight. I can take the lonely days, but I can't take these lonely nights. Are you alone? Tell me what's your name. I just need someone to lean on. I'm not playing any games. So sit down here beside me and let me buy you a glass of red rose wine. I can take the lonely days, I can't take these lonely nights. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.